Presenta. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e dieci minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Come sempre venerdì anche la poco invidiabile classifica del programma, che oggi non siamo ancora in periodo natalizio, ma si chiuderà con un regalo di commiato, diciamo così. Ma non voglio anticipare nulla, andiamo sui temi di questa giornata economico-finanziaria. Se poco fa è arrivata una notizia buona per la Cassa di Risparmio di Genova, che era di nuovo sospesa per eccesso di ribasso, nel senso che si dovrebbe essere a questo punto sbloccata l'impasse per l'aumento di capitale, perché si va verso la firma del consorzio per l'aumento di capitale, impegni di sottoscrizione sopra il 30% da parte degli azionisti forti, nel momento in cui anche Malacalza Investimenti ha firmato l'impegno a sottoscrivere il 17,6% dell'aumento di capitale della Cassa di Risparmio di Genova. Questo secondo le fonti, nei report che vengono citate dalle agenzie, era la Consob aveva sospeso i titoli in borsa, ma c'era stato un effetto a catena anche su altre banche che sono sotto aumento di capitale o che hanno annunciato, per meglio dire, l'aumento di capitale. Mi riferisco soprattutto al Creval, ma sarà l'occasione anche per fare il punto su un insieme di situazioni che riguardano le ex popolari, come le chiamiamo ormai, nel senso che faremo anche il punto sulla popolare di Bari. Faccio notare che a livello complessivo di indice oggi Milano è in linea, devo dire, con le altre borse europee quanto a percentuali, nel senso che perde lo 0,32% il FTSE MIB, con Parigi che perde lo 0,34%, Francoforte lo 0,32%, Londra invariata, Dow Jones meno 0,39%, Euro 1,1780, bene Xor più 2,11%, Tenaris più 1,40%, come Unipol da questo punto di vista un rialzo analogo, e ancora Fineco più 1,15%, Banco BPM più 1% come Mediaset, A2A più 0,60%. Il fronte opposto invece vede in ribasso soprattutto oggi Telecom Italia meno 1,16% da un lato, Enel meno 1,1%, Banca Mediolanum meno 1,30%, e direi che qui siamo sul fronte dei ribassi. C'è Ferrari che perde lo 0,80%. Andiamo ai migliori e peggiori, perché qui è più interessante vedere che cosa succede al fronte bancario. È chiaro, sospesa Cassa di Risparmio di Genova, notiamo Astaldi ancora perdere l'8,80%, e invece sul fronte opposto Monte dei Paschi guadagnare il 7,30%. Faccio notare che appunto come effetto della Cassa di Risparmio di Genova anche il credito valtellinese non è riuscito a fare un prezzo in borsa, aveva una ieri ha perso un 19% e il titolo appunto oggi non riusciva a fare prezzo. Hanno fissato però per martedì 19 dicembre l'assemblea degli azionisti con all'ordine del giorno l'aumento di capitale da 700 milioni di euro, e questo è il fronte, diciamo, della borsa, dell'andamento dei titoli in borsa. Avremo in apertura anche alcune dichiarazioni di Draghi da un lato sulla crescita nell'area euro, e poi l'attesa per l'EMA. Seguiremo con attenzione dunque la prima votazione per capire a chi andrà l'Agenzia Europea del Farmaco, avverrà alle 17:30 di lunedì. E poi avremo uno speciale, diciamo, dalle 21 in poi dedicato alla scelta, nella speranza che sia uno speciale per festeggiare la scelta di Milano, che ripeto non riguarda tanto Milano ma riguarda anche un riconoscimento di un ruolo all'Italia rispetto alle altre concorrenti, ma ne parleremo fra un attimo. 349 238 6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e come sempre la diretta su Facebook. Economia internazionale, il petrolio oggi indeciso rialzo sulle attese di un'estensione del taglio OPEC. Il Brent va sopra i $61 a $62 al barile, il WTI a $65 al barile. Questo perché il ministro dell'energia saudita Khalid Al-Fali ha detto che l'OPEC e i paesi alleati dovrebbero annunciare un'estensione ai tagli della produzione nel prossimo incontro a fine mese a Vienna. Tra l'altro, lo ha detto a Bonn, dove è in corso la conferenza sul clima. Dobbiamo riconoscere, ha continuato il ministro dell'energia saudita, che a fine marzo non saremo al livello cui volevamo essere, la media di 5 anni. Ciò significa che un'estensione di qualche tipo è necessaria. Economia internazionale, o meglio europea, abbiamo una crescente fiducia che la ripresa sia robusta, ma non siamo ancora al punto in cui la ripresa dell'inflazione è autosufficiente senza la nostra politica accomodante. Così il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, aprendo il congresso bancario europeo di Francoforte. Con la ripresa in corso, è stato l'invito di Draghi, è arrivato il momento giusto perché l'area euro affronti le sue future sfide alla stabilità. Questo significa fare ordine in casa per quanto riguarda i conti pubblici e creare cuscinetti in vista del futuro, non semplicemente aspettare che la crescita gradualmente riduca il debito. E poi sull'Italia, Draghi ha detto: le imprese italiane hanno visto il loro coefficiente di indebitamento scendere di rispetto al valore aggiunto di circa 30 punti percentuali dal fine 2012, tornando ai livelli di metà 2007. Quindi sostanzialmente i debiti delle imprese italiane, aggiungo io, quelle che sono sopravvissute, sono scesi drasticamente, sono tornati al livello del 2007. È segno che la ripresa non è venuta con un ritorno all'indebitamento, dice Draghi, che sottolinea l'aspetto positivo, ma piuttosto grazie alla politica monetaria, con una riduzione della leva e quindi producendo una fase espansiva più sostenibile. Cerco di tradurre: il fatto che la ripresa in corso non veda un aumento del debito delle imprese vuol dire sostanzialmente, dice Draghi, che questo è merito nostro, cioè della Banca Centrale Europea e di tutto l'atteggiamento espansivo di liquidità che abbiamo messo in campo. From the ECB's perspective, we have increasing confidence that the recovery is robust. Per le prospettive della BCE abbiamo una crescente fiducia che la ripresa sia robusta e che questa fase possa proseguire. Per l'area euro il coefficiente di indebitamento è tornato grosso modo ai livelli pre-crisi. In Spagna l'indebitamento è sceso dal 215% del 2012 a quasi il 150% di oggi, ritornando ai livelli del 2004. The same level it had back in 2004. Italian firms have seen their debt ratio. Le imprese italiane hanno visto il proprio debito scendere di circa 30 punti percentuali da fine 2012, tornando ai livelli di metà 2007. La ripresa quindi non è avvenuta con un ritorno all'indebitamento in nessun settore. Infatti la politica monetaria sta consentendo di ridurre la leva, producendo una fase espansiva più sostenibile. And produce a more sustainable upswing. L'Agenzia Europea del Farmaco, vedo che nonostante sia venerdì, mi scrive l'ascoltatore, la sede Agenzia del Farmaco sarà a Milano come prebenda premio al governo dei servi che hanno fatto la legge sui vaccini contro di noi. Si arriva con fatica al fine settimana, Cioè, mi sembra un delirio. Intanto faccio gesti scaramantici perché mi auguro che appunto che arrivi a Milano l'agenzia del farmaco. Dubito, per essere così ironici, che c'entri qualcosa una mazza, come dicono i francesi, la legge sui vaccini. In realtà vediamo le quotazioni dei broker, dei bookmakers, scusatemi, londinesi. Allora, Ladbrokes 2-1 per Milano, però le concorrenti si stanno avvicinando. Bratislava è quotata a 3, quindi, mentre qualche 3 giorni fa era data 5. Chiaramente più basso è il premio che guadagni, che becchi, più alta è la possibilità che il paese si aggiudichi l'EMA. Amsterdam era 10-1, adesso è 7-1. Lille e Vienna restano 10-1, Copenaghen 12-1, Barcellona, Dublino e Porto 16-1. Quindi è veramente un testa a testa tra soprattutto Milano 2-1 e Bratislava 3-1 per i bookmakers. Amsterdam 7-1, già un po' più distanziata. Perché dico che sarebbe un bene non solo per il Milano ma per l'Italia? Intanto perché a nessuno sfugge anche l'elemento politico di questa scelta. Quindi spesso l'Europa, a mio avviso ha ragione, l'Europa del sud si è sentita trattata, diciamo, ne abbiamo parlato decine di volte, in maniera come Europa di serie B, dall'attrazione tedesca, anche francese un po', ma insomma tedesco, olandese del nord, nella gestione dell'area euro. E quindi sarebbe un segnale che, voglio dire, l'Europa è veramente un'Europa allargata, non quella che si ferma, diciamo, sul Reno o la Mitteleuropa. Ma in aggiunta a questo faccio notare che l'EMA vuol dire 40.000 camere d'albergo all'anno, perché non ci sono non è tanto sui dipendenti ma su tutta l'attività che l'agenzia del farmaco svolge, anche perché l'agenzia del farmaco ha un ruolo su tutte le controversie a livello europeo. Sotto profilo pratico si dovranno trovare posto negli alloggi scolastici a circa 600 figli dei dipendenti dell'Agenzia dell'Unione Europea, bambini e giovani di età diversa che hanno anche specifiche esigenze linguistiche. Poi osserveranno 900 alloggi di qualità a costi accessibili, ben collegati al trasporto pubblico. Milano è in vantaggio dal punto di vista tecnico perché ha già tutto pronto, nel senso, la sede sarebbe il Palazzo Pirelli, no? Quello che uno vede dalla stazione centrale, ex sede della Regione Lombardia. E le infrastrutture all'avanguardia permetterebbero di non perdere neppure un giorno di lavoro ai dipendenti dell'agenzia. Non avverrebbe tutto chiaramente in tempi brevissimi, perché dal momento dell'assegnazione alla nuova città della sede dell'EMA, che deve trasferirsi da Londra, l'EMA avrà meno di 17 mesi per concludere il trasferimento. Occorre appunto via libera delle autorità locali, del board di gestione per l'edificio, processo che potrebbe richiedere tra i 6 e gli 8 mesi, poi l'adeguamento del palazzo alle esigenze dell'agenzia, altri 12-15 mesi, e poi appunto gli alloggi. Però Milano resta, ripeto, favorita, perché avrebbe già la possibilità di avere tutte le strutture pronte. Se poi uno vuole tifare Bratislava, è liberissimo di farlo. Tafazzi è sempre tra noi. Faccio notare che appunto non riguarda solo Milano, riguarda il paese Italia, che è una delle principali economie dell'area euro, non abbia un'agenzia europea sarebbe abbastanza scandaloso. Poi c'è chi dice sì, ma si vorrebbe fare dare un segnale ai paesi dell'est. Ho capito, secondo me, adesso non mi fate andare troppo in là, ma anche l'atteggiamento che hanno avuto molti paesi dell'est nei confronti dei flussi migratori dovrebbe essere un demerito per dare un premio ai paesi dell'est. E invece, visto che poi i vari commissari europei riconoscono lo sforzo immane fatto dall'Italia con i migranti in questi anni, beh, riconoscetelo non solo a parole, riconoscete il ruolo dell'Italia anche quando si tratta di assegnare diciamo le istituzioni europee. Questo chiaramente è il mio punto di vista. Vedremo poi dalle 17.30 verso le 19.30 si dovrebbe conoscere a questo punto il nome, perché è prevista, se non verrà poi cancellata, la conferenza stampa sempre lunedì. L'Italia, tra l'altro è intervenuto anche il Premier Gentiloni sull'EMA e sulle attese che l'EMA venga aggiudicata a Milano. Comunque, per quello che riguarda l'economia, il Premier ha detto al termine del vertice di Gothenburg che è ottimista per la ripresa, la crescita in Italia è molto significativa, con previsioni per quest'anno che sono il doppio rispetto a qualche mese fa, va incrementata e accudita. Io sono ottimista per la ripresa della crescita in Italia, finalmente, che è una ripresa molto significativa. Attualmente le previsioni per quest'anno sono esattamente il doppio di quello che erano alcuni mesi fa. Poi certamente la crescita va incrementata, accompagnata, accudita. Il bilancio italiano è un bilancio che accompagna questa crescita e rispetta le regole europee, quindi non mi aspetto dall'Unione Europea niente di diverso che non il riconoscimento di questi sforzi e l'incoraggiamento a proseguire su questa strada. E oggi giornata nazionale delle piccole e medie imprese, organizzata dalla piccola industria di Confindustria. Per l'ottavo anno consecutivo, insomma, le aziende hanno aperto le porte agli studenti delle scuole medie e delle superiori, agli insegnanti e alle comunità locali. Quest'anno, in collaborazione col gruppo tecnico Made In di Confindustria, l'attenzione si è focalizzata sulla lotta alla contraffazione, come ha raccontato al microfono al nostro Vincenzo Miglietta Stefano Zapponini, vicepresidente di Piccola Industria di Confindustria. Il senso è avvicinare le nuove generazioni all'impresa, ma anche i loro docenti, gli amministratori degli enti locali, i media. Quando iniziò, ormai siamo all'ottava edizione, era il 2010, presidente della piccola era Enzo Boccia, e quella che molti chiamavano e tuttora chiamano crisi aveva appena iniziato a manifestare gli effetti. In realtà la piccola industria comprese che eravamo di fronte a qualcosa di molto più importante che una semplice, per quanto profonda, crisi. Quindi capimmo che bisognava cambiare passo, bisognava prepararsi ad un futuro molto diverso. Ecco lì che abbiamo intuito che i giovani avevano effettivamente una voglia maggiore di capire cosa fosse l'impresa, e con loro anche gli insegnanti che erano sempre più consapevoli che questa diffusa cultura antimpresa aveva fatto gravi danni e gli effetti li cominciavamo a misurare, che non esisteva, come non esiste, un'alternativa reale all'impresa come strumento di creazione di valore sia economico che sociale. Solo attraverso l'impresa la società migliora, cresce, si innova e rende il sistema più competitivo, più dignitoso, più attrattivo. Di cosa si discute? Si va al di là, per esempio, dell'alternanza scuola-lavoro? Qual è il focus di questa giornata? In queste 8 edizioni avremo portato 300.000 studenti e docenti in migliaia di piccole imprese. Questo è il grande risultato dal punto di vista meramente numerico. Ma per dire, il successo lo misuriamo anche con l'adesione di oltre il 90% delle associazioni territoriali. È una partecipazione praticamente di quasi tutto il sistema di rappresentanza confindustriale, ma siamo andati oltre. Abbiamo fatto una partnership su questa idea anche con Confagricoltura per spiegare ai ragazzi la filiera agroalimentare, quindi far capire che possono esistere settori diversi, ma poi alla fine il valore si crea insieme, quindi non c'è uno migliore dell'altro. Ci sono soggetti di buona volontà che vogliono insieme fare un progetto di successo. Allora, adesso andiamo a chi mi scrive al 349-238-6666. Confermo che c'è la classifica, confermo che parleremo anche delle banche a partire da Cassa di Risparmio di Genova, effetto su credito valtellinese e quant'altro. Adesso andiamo però sul meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Logica, spazio, tempo, module block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Allora, adesso arriviamo alla classifica, ancora due notizie. Una riguarda all'Italia, dopo l'interessamento anche forte di Lufthansa è intervenuto il ministro Del Rio, Graziano Del Rio, è intervenuto durante appunto il Festival dell'Economia che abbiamo presentato anche ieri, e si chiama appunto Economia Come, e ha detto insomma sì, però detto al microfono del nostro Giorgio Samatopoulos, non vogliamo svendere all'Italia. Si può dire che stiamo continuando a valutare, il lavoro dei commissari è molto serio, accurato. Ho sempre detto che non dobbiamo svendere, dobbiamo vendere all'Italia, salvaguardare al massimo un piano di sviluppo industriale del settore aereo che in Italia sta crescendo in maniera molto importante. E che è uno degli strumenti con cui noi facciamo muovere il paese, l'economia del paese, appunto, perché grazie alla grande crescita negli aeroporti abbiamo avuto un grande risultato sul turismo. Quindi le connessioni sono fondamentali per il nostro paese per giocare un ruolo di ripresa e di aumento dell'occupazione. Noi lavoriamo per fare le cose fatte bene, ma non vogliamo nemmeno appunto avere troppa fretta, perché l'azienda è un'azienda che ha già avuto diverse ristrutturazioni, coinvolge decine di migliaia di dipendenti e famiglie. Mi pare che sia il caso di far bene più che di far presto. E poi il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, sempre dal Festival Economia Come, sulla manovra, insomma, dice aspettative basse, l'importante è non fare danni. Ha ricordato che il 16 febbraio a Verona si terranno le assise di Confindustria per spiegare l'agenda, cioè, nell'interesse del paese, i punti, diciamo, per l'economia, per il governo che verrà. E tra l'altro ha aggiunto, insomma, l'importante è non smontare le cose fatte, con un esplicito riferimento alle pensioni e al Jobs Act. Sì, c'è ancora molto da fare, un'inversione di tendenza importante che ci dice che il PIL cresce oltre le aspettative, l'export cresce, ma dobbiamo ricordarci il messaggio che viene anche dall'Europa: l'economia italiana è ancora fragile, abbiamo un debito pubblico rilevante, quindi occorre continuare a puntare sulla crescita, non depotenziare quei provvedimenti che hanno avuto effetti sull'economia reale e avere un'attenzione alla sostenibilità dei conti del Paese. Fare una politica che attivi solo deficit e non crescita e quindi incrementi il debito non è la strada che l'Italia può percorrere. Mi sembra un messaggio ai partiti che si candideranno a governare il Paese nel futuro, è un messaggio che viene dall'Europa. Due cose complementari, non sono antitetiche. Continuare la strada della crescita e attenzione al debito mi sembra le due grandi sfide che il Paese deve fare proprio e cavalcare. La classifica della settimana. Allora, la classifica. Oggi abbiamo avuto un po' di problemi tra il quinto e il quarto posto, perché la cifra non è altissima, però voglio dire, il fenomeno lascia sempre sbalorditi. Alla fine abbiamo scelto, allora, al quinto posto abbiamo visto di tutto in questi anni, dall'ex ministro Scajola alla casa a sua insaputa, abbiamo visto conti a insaputa, insomma stipendi a insaputa, abbiamo visto il porno attore a sua insaputa, beccato per assenteismo, stipendio a sua insaputa non l'avevo ancora visto, ma soprattutto se lo riceve un sacerdote, ma in questo caso è una busta paga statale perché lo riceveva come insegnante di religione, allora o io capisco a in sua insaputa, o pensa alla divina provvidenza, oppure mente. Perché che è successo? Sul banco degli imputati un sacerdote che veniva pagato come insegnante di religione dal febbraio 2008 al novembre 2014 ha percepito la busta paga nonostante si fosse dimesso dalla scuola. Lui sostiene di non essersi accorto dell'accredito dello stipendio fino all'inizio delle indagini. Io capisco tutto, però insomma abbiamo visto anche Formigoni non toccare mai conto corrente. Qui c'è qualcuno che riceve sul conto corrente ogni mese per 6 anni uno stipendio, ma non se ne accorge. Allora, solo nel 2015, quando sono iniziate le indagini, ha riconosciuto di aver ricevuto somme non dovute, 170.000 euro sul conto corrente in 6 anni. Per il PM Enrico Bologna, il prete avrebbe mantenuto un malizioso silenzio, approfittando dell'errore dei funzionari della Ragioneria dello Stato. Io capisco tutto, però insomma l'esempio è importante, lo dico perché insomma la località è Palermo. Dicevo, questo è il quinto posto. Al quarto posto la cifra è analoga, ma è esemplificativa. Stiamo parlando di 180.000 euro. Di come si possono sprecare i soldi per motivi puramente ideologico-elettorali, e tra l'altro, voglio dire, anche in maniera assurda. Qualcuno insomma che conosce la storia ricorderà la figura poco nobile, lo dico molto tranquillamente, di Rodolfo Graziani. Poco nobile perché fu accusato anche di usare gas Nervini nella campagna nella guerra di Etiopia. Poco nobile perché fu accusato di brutalità, più volte anche certificate, nei confronti degli abissini. Poco nobile perché fu un generale disastroso dal punto di vista della seconda guerra mondiale, nella prima parte della campagna in Nord Africa, prima che arrivasse Rommel. Poco nobile anche perché fu ministro della guerra della Repubblica di Salò e quindi condannato nel 1948 a 19 anni di reclusione per collaborazionismo, liberato nel 1950, poi non passò mai altri giorni in carcere. Ma insomma Graziani è una delle figure, basta leggere un libro di storia, peggiori della nostra memoria, anche come, oltre che come per il ruolo che ha avuto nella Repubblica fascista di Salò, anche per come generale, un disastro vero. Detto questo, lui era originario di Filettino, nel Frusinate, ma visse e morì ad Affile e lì è sepolto. Infatti a Rieti si mantiene una, diciamo, una certa ricordo della persona. Allora, la procura di Tivoli ha chiesto, ricorrerà in appello, 2 anni per il sindaco e 1 anno e 7 mesi per i 2 assessori accusati di apologia del fascismo. Dici, ma che c'entra con la classifica? No, è interessante perché il sindaco di Affile, che è un paesino dell'Alta Valle Aniene, Ercole Viri, e i 2 assessori Giampiero Frosoni e Lorenzo Peperoni sono stati condannati a 8 e 6 mesi per la realizzazione nel 2012 del sacrario con museo dedicato al gerarca fascista Rodolfo Graziani. 180.000, il costo è più alto, 180.000 euro arrivarono dalla Regione Lazio, guidata al tempo da Renata Polverini. Ma io dico, immaginando che i problemi della Val Aniene non si concretizzino nella figura di Graziani, che sarebbe meglio anche, non dico dimenticare, ma studiare per capire quanto negativa fosse quella figura. Chi se ne frega se è nato da quelle parti, se è vissuto da quelle parti? Non è che se uno è nato e vissuto in un posto gli facciamo il monumento. E tra l'altro soldi pubblici usati invece che per un asilo, per una strada, per una aiuola, per qualcosa, no, per un monumento che adesso deve essere anche abbattuto, il monumento sacrario, pensa un po'. Ma andiamo al quarto posto. Questa è bellissima. Io purtroppo non siamo riusciti a beccare il nome al terzo posto, scusatemi, mi fanno segno in regia che ogni tanto anch'io sbarello. Allora, al terzo posto, questa è bellissima, ci ho messo un po' a capirla. È un medico che era stato trasferito dall'ospedale Santa Maria di Loreto Nuovo, il Loreto Mare, in un ospedale, il presidio intermedio Napoli Est, il pronto soccorso. No, questa è, io vorrei conoscere il nome, perché mi piacerebbe fare nome e cognome in questo caso. È stato licenziato in tronco dalla ASL Napoli 1 perché le verifiche hanno messo in luce, un'indagine interna con il nucleo ispettivo ha messo in luce una realtà che sfiora l'assurdo. Il medico avrebbe confezionato in un solo giorno, lo scorso 30 giugno, era in servizio al pronto soccorso, lui va in servizio al pronto soccorso e becca 18 referti medici per pazienti tutti coinvolti in incidenti stradali, tutti e 18. allora porti sfiga, uno potrebbe dire, non andare più al pronto soccorso. 18, vai tu, 18. Che cosa, siccome è la cosa un po' strana, che tu nel tuo turno faccia 18, o c'è stato veramente un disastro, ma a quel punto l'avremmo avuto notizia, o se no, diciamo, 18 in una botta sola, incidenti stradali e referti medici, viene tutto tra l'altro durante le ore di straordinario al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo. Allora l'ASL Napoli 1 indaga e manda anche le sue indagini alla Procura della Repubblica di Napoli, che ha avviato a carico dello stesso un procedimento penale, e all'ufficio procedura disciplinare aziendale, che ha dato il via all'attivazione del procedimento disciplinare. Praticamente che cosa è successo? Secondo l'accusa avrebbe redatto una serie di falsi referti medici per ricevere da terzi compensi in denaro, e aggiunge l'istruttoria, commettendo così gravi reati, concussione, corruzione, falsità materiale in atti pubblici e altro. Quindi lui si metteva d'accordo, faceva il referto, così tu ti beccavi l'assicurazione, in cambio si faceva dare dei soldi. 18 referti solo il 30 giugno, e non sappiamo quanti ne abbia fatti in altre occasioni, perché insomma è difficile che ti sia partita la mano solo il 30 giugno, anche perché il medico in questione è recidivo, e come se è recidivo, era già stato trasferito dall'ospedale appunto Santa Maria di Loreto Nuovo al San Paolo, perché coinvolto in analoghi episodi di cui si sta interessando anche la procura di Nola. Ecco, vedi che questa non era la prima volta, ma soprattutto il medico si è reso tra l'altro responsabile di una condotta lavorativa assolutamente irriguardosa delle regole che disciplinano il lavoro dei pubblici dipendenti. L'accertamento sul badge del dipendente ha infatti evidenziato orari irregolari e incongrui e assenze giustificate dal servizio, che hanno determinato il licenziamento senza preavviso. Ecco, anche perché spostarlo vuol dire solo spostare il numero di persone che subiscono un incidente stradale da un ospedale all'altro. Licenziate in tronco e speriamo non si faccia più vedere. E adesso arriveremo, dopo il traffico, alla seconda e al ricordo, al regalino che vorremmo lasciare quando finisce un amore, quando finisce una giunta, insomma, così a una giunta che è terminata. Giustamente tutti hanno diritto al loro Natale. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Traffico. Focus Economia. Oh, andiamo al secondo posto. In realtà ce ne siamo occupati anche la settimana scorsa, perché Simone Spezia, in effetto, giorno aveva raggiunto il sindacalista dell'ATAC. No, lo dico perché non voglio mollare il colpo su sta vicenda. Io penso che sia allucinante, dopo quello che abbiamo raccontato in questi anni, anche del ruolo che hanno avuto i sindacati nella crisi in cui è sprofondata l'ATAC, perché non mi puoi dire che non hai visto nulla quando di fatto cogestisci o hai cogestito l'azienda, quando di fatto hai avuto appalti senza gara su cui ci sono indagini in tutti questi anni per gestire le mense, il dopolavoro, addirittura i distributori di macchinette, tutto qua, non hai mai visto nulla. Il problema erano l'ex Improta, quando Improta, allora assessore, cercò di Guido Improta di mettere mano all'ATAC, oppure l'ex direttore generale Rettighieri. Non hanno mai visto i furti, non hanno mai visto i mezzi che si rompevano, non hanno mai visto gli orari di lavoro degli autisti dell'ATAC, che come ricordo spesso sono molto più bassi di quelli a Milano, e anche le medie dell'orario, e anche a Roma e anche a Napoli, scusatemi. Perché lo dico? Perché l'ATAC ha un debito, lo voglio ricordare ogni volta, di 1.300 milioni di euro la municipalizzata di Roma, di cui 450 milioni li ha come debito con il Comune di Roma. Negli ultimi 5 anni l'azienda ha bruciato 4 miliardi e mezzo di euro arrivati da Regione e Comune. Nel 2016 ha chiuso con una perdita di 212 milioni, in peggioramento rispetto ai 79 milioni del 2015 e ai 141 milioni di perdita del 2014. In una situazione così, che cosa diresti tu? Beh, stringiamo la cinghia, cerchiamo di efficientare la macchina, perché se fossimo veramente un'azienda privata saremmo veramente già falliti dal 2014 probabilmente. E ripeto, tutti i paragoni con altre gestioni sono allucinanti. I chilometri per dipendente a Milano sono il 38% in più rispetto a quelli di Roma. L'ATM ricava dai biglietti 426 milioni, l'ATAC, pur essendo più grande, solo 260 milioni, e via così. L'azienda ha bruciato quello che ha bruciato. Perché lo sto dicendo? Perché nonostante questi numeri e nonostante il sindacato dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza e dire, beh, forse se siamo così potenti e non abbiamo visto il disastro a cui andavamo incontro, qualche responsabilità ce l'abbiamo? No, no. I sindacati sono ancora sul piede di guerra in vista del nuovo piano del personale ATAC, che dovrebbe portare ad aumentare le ore di guida ad autisti e macchinisti, dovrebbe rimuovere la cosiddetta franchigia guasti, eliminare il tempo delle manovre in deposito dal conto del tempo lavorato e reintrodurre il badge. Il badge. Allora, molte sigle sindacali sono inferocite, hanno minacciato di fermare la città, di creare un caos tale da costringere il governo a intervenire con il commissariamento della municipalizzata. Ha scritto su Facebook Claudio De Francesco, segretario della Faisa Confail e uno dei leader dello sciopero bianco del luglio 2015, quello che costò la poltrona sia all'assessore Guidin Prota, e accelerò anche la caduta di Marino, non solo per quello chiaramente. Ha scritto Claudio De Francesco che chiaramente non ha nessuna responsabilità di dove sia arrivata l'ATAC, solo due parole, due punti: blocchiamo Roma. Questo è il segretario del Faisa Confail. Che cosa dovrebbe prevedere il nuovo piano? Il turno di un autista dovrebbe salire da 6 ore e 30 minuti a 7 ore e 15 minuti, con azzeramento immediato delle indennità correlate ai cosiddetti turni lunghi, visto che i conducenti prendono 10 euro in più ogni volta che il turno raggiunge il massimo della durata. Incrementato l'orario settimanale dei macchinisti nei metropolitani di 39 ore effettive, dovrebbe essere raggiunto come media nell'arco di 26 settimane. Previsto un accordo, nell'accordo un incremento dei giri medi per turno da 2,4 a 3,4 giri. In sostanza vuol dire che le operazioni devono avvenire tutte in maniera più veloce e non si può perdere tempo tra un giro e l'altro, anche perché verranno eliminati i turni non girati dedicati alla manovra, quindi non saranno più conteggiati. Insomma, il piano somiglia molto a quello già proposto dalla gestione Improta. Voglio vedere se avranno il coraggio di bloccare la città di Roma, perché a quel punto ci divertiamo, gli dedichiamo 5 posti su 5 nella classifica, è una cosa allucinante. L'alternativa sarebbe commissariarla, no, in un posto normale, vabbè, è questa la gestione, commissariamento, riassunzioni e via così, ma tanto non si può fare. Però non può neanche essere che noi italiani e i romani ci dobbiamo accollare 1.300.000.000 di euro di debito e tu continui, caro sindacato interno, a straparlare. Sei anche sotto inchiesta per la cogestione, per gli appalti assegnati in quel modo, per le gare assegnate in quel modo. Va bene, andiamo sul GR24, poi il primo posto, il caso Virtuoso e la situazione delle banche italiane assieme alla borsa. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Sì, conferma chi mi scrive che la media delle ore lavorate dagli autisti dell'ATAC è inferiore anche a quelle dei loro colleghi di Napoli, oltre che della TM di Milano. GR24. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni per la seconda parte di Focus Economia e per arrivare al primo posto della classifica e soprattutto all'elemento virtuoso, perché allora, se mi è bastata la base, perché vorrei un momento di raccoglimento, nel senso che c'è chi sta facendo le valigie e ha tutta la nostra solidarietà, anche perché ci ha aiutato in questi anni a rimpinguare la classifica, non che abbiamo problemi a trovare, ahimè, elementi e notizie ogni settimana, ma vorremmo così dare il nostro saluto ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana, si chiamano deputati perché è un Parlamento, che si apprestano a lasciare l'Assemblea a quelli non riconfermati e non rieletti. Lo dico però almeno in questa tristezza c'è qualcosa che ci consola, perché Per loro sono pronti 2 milioni di euro per gli assegni di fine mandato, che verranno dati a tutti i deputati uscenti, compresi i non rieletti. Io non ho capito perché debbano essere dati in generale, ma a maggior ragione a chi è rieletto. Comunque, non voglio rovinare questo clima di raccoglimento. Si tratta di circa 20.000 euro a testa per i 90 deputati dell'Assemblea regionale siciliana. C'è chi in realtà aveva già chiesto l'anticipo della somma prima della fine della legislatura. L'importo viene calcolato sulla base dell'indennità parlamentare che, esclusa la diaria, perché c'è pure la diaria, già ammonta di suo a 6.600 euro lordi al mese. Ai deputati viene anche versato un mese di stipendio aggiuntivo per ogni anno trascorso nell'Assemblea. Io dico, questo mi riempie il cuore, perché ero molto preoccupato di cosa sarebbe successo ai non rieletti. Dove vai a lavorare? Come ti squalifichi? Che tipo di specializzazione hai? Invece almeno riusciranno ad avere un periodo transitorio di accompagnamento, appunto 20.000 euro, 2 milioni di euro, in una regione che ha difficoltà a garantire i servizi minimi ai disabili, come abbiamo raccontato molte volte nel caso di Palermo, e che ha difficoltà a garantire servizi minimi in generale, in una regione in cui, devo dire, il premio ci sta tutto, perché siccome lasceranno i membri della ARS, non rieletti, ma tutti quanti, lasceranno una regione con un debito che supera gli 8 miliardi di euro a fine 2016, sostanzialmente una regione che, come scrive la Corte dei Conti nel 2015, sarebbe già tecnicamente fallita, ma non fallisce solo perché non è indipendente alla faccia dell'autonomia, ma è, non voglio perdere le staffe, ma è parte di uno Stato sovrano che ogni anno, si chiama Italia, copre parte delle esigenze finanziarie della regione. Tra l'altro il governo nazionale e regionale hanno stipulato un accordo un anno fa, il 20 giugno 2016, sulla base del quale negli anni 2016-2017 saranno riconosciuti alla Sicilia maggiori gettiti IRPEF per 1 miliardo e 400 milioni, che aumenteranno nel 2018 a 1 miliardo e 700 milioni. Questa è una buona notizia, eravamo molto preoccupati per il futuro dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana, che tanto bene hanno amministrato la regione, che appunto ha 8 miliardi di euro di debito, ma che bello, ci sono 2 miliardi di assegni di fine mandato, non bastava il resto, assegni di fine mandato. Allora un applauso, perché ci sentiamo tutti più sollevati, e con questo spirito, diciamo, non dico che stia iniziando un periodo natalizio, ma comunque un periodo in cui tutti siamo più buoni, più contenti e felici per il loro destino. Poi mi chiedete perché sono contro le regioni autonome, anche quelle che amministrano bene, però ricevono i soldi. Comunque io spero che, insomma, i nuovi deputati, non so se sperare che ci continuino a fornire, no, è ovvio che spero per il bene del paese che non ci forniscono più elementi per la classifica, dubito, ma lo spero. Federico Quarato, fondatore di Dynamitic, buonasera. Dynamitic, buonasera. Buonasera, dottor Barisoni. Cos'è Dynamitic? Quando l'avete fondata? Chi vi ha aiutato? Quanti siete? Un fiorino, prego. Quattro soci nel 2016, quattro giovani under 30. Ci siamo immaginati di applicare le logiche di dynamic pricing, conosciuta nel mondo del turismo, a un settore che soffriva di tanto invenduto e non le ha mai applicate, che è quello dell'intrattenimento, quindi il ticket. Cos'è il dynamic? Scusi, cos'è il dynamic pricing? Dynamic pricing significa cambiare il prezzo di un prodotto in base al cambiamento di diverse variabili che spostano la domanda, quindi la domanda per quel bene. E voi l'avete applicato ai biglietti dei cinema? Sì, siamo teatri, partiti dal mondo del cinema, prego. Teatro, stadio, sì, tutto quello che è intrattenimento. Quindi e quello che mi scusi, e come funziona? funziona che non ha sempre lo stesso valore andare allo stadio. Se si va di domenica pomeriggio, c'è il sole, c'è un big match, non ha senso pagare come se fa molto freddo e si gioca contro una squadra che non ha molto appeal, questo per banalizzare. Mi scusi, ma è una specie di non è un last minute sui biglietti per teatro, cinema, stadio? No. No, è una cosa più costruita, perché si parte dal primo minuto di vendita, quindi non sa più un biglietto con un prezzo fisso, il classico prezzo intero, ma un prezzo che è del tutto variabile, quindi si sposta in un range più ampio. E avete già avuto clienti, quindi domanda per questo dynamic pricing che voi fornite? Sì, abbiamo una ventina di strutture cinematografiche in tutta Italia, circa 116 schermi, una squadra di basket in Serie A, che è l'Auxilium Torino, una squadra di calcio in Serie B, che è la Virtus Entella, speriamo altri piccoli clienti, piccoli e non piccoli, come il Teatro Filodrammatici a Milano. Se ho ben capito, io dovrei essere un vostro cliente, perché con questo biglietto dal prezzo modulare a seconda di un insieme di variabili che appunto lei citava, anche per farci capire, io riesco a offrire magari un biglietto a un prezzo più basso, ma vedo aumentare le vendite, perché sennò qual è il motivo per cui io dovrei diventare vostro cliente? Per questo, chiaramente, per aumentare le vendite e quindi aumentare il proprio giro d'affari in quelle date in cui magari gli affari non stanno girando bene, e al contrario invece si può massimizzare la domanda, cioè massimizzare i volumi laddove la domanda è alta e magari non era stata stimata in questo modo. Perché chiaro, il concetto è che il processo di vendita di un momento di intrattenimento ha un ciclo di vita, e quindi quello che ci immaginiamo all'inizio della vendita poi non può non succedere, basta un tweet sui social network a far calare la popolarità di un artista, e quindi lo abbiamo visto lo scorso anno con alcune tournée anche importanti, quindi uno scandalo che coinvolge un artista e cala bruscamente la domanda. Bene, se calasse anche il prezzo del biglietto, magari si riuscirebbe a portare al palazzetto altra fetta di pubblico che è più sensibile al prezzo. Allora, quanti siete, che giro d'affari avete, chi vi ha aiutato? Siamo una decina di persone, abbiamo un giro d'affari che dovremmo chiudere nel 2018 sotto i 300.000 euro stimati, ma non troppo sotto. Ci ha aiutato un fondo di investimento che è il Venture Group, che ci ha incubato ad Enlabs a Roma, poi ci ha aiutato anche YLab, l'incubatore di impresa di Chiavari, che è specializzato con le start-up destinate all'industria dello sport, e poi una serie di imprenditori, tra cui anche Fabio Cannavale con il suo fondo Boost Heroes. E quanto fatturate e che prospettive avete? Come dicevo, fatturato dell'anno dovremmo chiuderlo un po' poco sotto i 300.000 euro, quindi siamo ancora una piccolissima realtà, microscopica direi. Le banche niente, non le avete chiesto aiuto? No, non l'abbiamo chiesto, non l'abbiamo cercato, non credo che l'avremmo ottenuto, soprattutto all'inizio, quando parlando di questa idea con diverse persone veniamo ritenuti abbastanza pazzi. In realtà solo chi si occupa di startup in Italia ha da subito ci ha creduto. Senta, in una battuta mi scrive qualcuno, ma praticamente è un bagarino, no? No, ecco, questo è un tema delicato, ma c'entra un po' il punto. Quello che noi permettiamo è al mercato primario di evitare che sul mercato secondario si generi quel plus valore che poi va... Cioè che vadano i biglietti bagarini, traduco in maniera meno forbita, ho capito bene? Esatto. Sì, perché i bagarini di fatto vivono di una grande certezza, che il prezzo sul mercato primario è fisso, e quindi fare i calcoli su quanto acquistare e a quanto rivendere è molto più semplice. E voi con questo algoritmo invece è direttamente sul mercato primario, cioè chi emette il biglietto che dice non è 15 euro ma te lo posso vendere a 8, perché sono insieme di variabili che mi portano a dire... Esatto. Quindi bagarini del mercato primario, vabbè, li chiami bagarini, no, rispondo a un ascoltatore che ce l'ha con questo tema. In bocca al lupo a lei, agli 11 dipendenti, che spero che salgano, come diceva, 15 l'anno prossimo. Grazie anche a Federico Quarato, fondatore di Dynamitic, andiamo sul traffico e poi la dinamite, diciamo, che ha mosso i titoli bancari, per usare un gioco di parole, anche se sulla Carige la situazione si è schiarita proprio in finale di seduta. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Soy el fuego que... So il fuoco che brucia o rischia di bruciare sotto, diciamo, il capitale, non voglio essere volgare, delle banche, di alcune banche popolari. Allora andiamo con ordine. La borsa, come ricordavamo, ha chiuso meno 0,50 sulla scia di Parigi, meno 0,30, Francoforte meno 0,40. In positivo Exor più 2%, Fineco più 1,60, 1,40 Tenaris, 1,20 Unipol, 1% Banco BPM. Fronte opposto, Banca Mediolanum meno 2, ricordati meno 1,5 come Telecom, Enel e Iux Net a Porté. Ma il tema di giornata è stato quello bancario. Da un lato la Cassa di Risparmio di Genova, che è stata sospesa, non riusciva a fare prezzo dalla Consob, e dall'altro però anche il Credito Valtellinese, inizialmente sulla scia della Cassa di Risparmio di Genova, in realtà poi il Credito Valtellinese alla fine ha chiuso con un meno 25% a 0,80 euro le azioni, e ha fissato la data per l'aumento di capitale per quello che riguarda il Creval a dicembre. Adesso ritrovo anche la data dell'aumento di capitale, e poi altre preoccupazioni su altre banche. Da questo punto di vista abbiamo visto anche un po' di maretta sulla Popolare di Bari. Marco Ferrando del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, Cassa di Risparmio di Genova, la situazione si è sbloccata nel finale perché è arrivato un ok al piano di sottoscrizione, soprattutto è arrivato Malacalza. Sì, è arrivato Malacalza, che col suo 17% è l'azionista di riferimento. Nella notte tra mercoledì e giovedì era saltata questa trattativa, perché non si capiva bene se Malacalza si tirasse indietro, volesse salire, insomma, situazioni estreme che avevano fatto indietreggiare il consorzio di garanzia, quindi le banche d'affari hanno alzato le mani, così noi non garantiamo, e di fatto in queste condizioni non si sarebbe potuti partire. Invece oggi sono tornati tutti a più miti consigli, Malacalza ha firmato un impegno a sottoscrivere pro quota, così come gli altri grandi soci, parliamo di Spinelli, di Volpi, delle cooperative liguri, di fondazioni, insomma il 30% di fatto è virtualmente in cassa, e a queste condizioni invece le banche d'affari dovrebbero prestare le loro garanzie e quindi andare sul mercato verosimilmente da metà fine settimana prossima, qualche giorno di ritardo rispetto alla tabella di marcia prevista, ma in modo tale da poter chiudere entro fine anno, che era la scadenza, la deadline posta dalla BCE. Allora, Credito Valtellinese invece, perché abbiamo Cassa di Risparmio di Genova, a questo punto la Carige dovrebbe farcela, qui ha perso un altro 25% a 0,80 euro per azione, un tracollo vero e proprio. Ha fissato la data di assemblea degli azionisti, l'aumento di capitale, il 19 dicembre. Faccio notare che è un aumento, a maggior ragione con il calo di oggi, che vale più di 3 volte il valore di borsa. Sì, è così. Il Creval, come già abbiamo detto altre volte, era in area di aumento, ma non di queste proporzioni, e la reazione del mercato lo dimostra, perché appunto ha perso il 70%, credo, vado a memoria, negli ultimi 10 giorni, cioè da quando ha annunciato questa manovra. Tra l'altro, da segnalare oggi che c'è stata una comunicazione ufficiale da parte della Popolare di Sondrio, che si è tirata indietro, era stata tirata, diciamo, per la giacchetta come possibile cavaliere bianco, ha detto no, noi stiamo bene da soli. Questo complica ulteriormente, anche se, oddio, già nei mesi passati, insomma, il possibile matrimonio in famiglia. Sì, su Credito Valtellinese ci sono state due riflessioni che hanno accompagnato questa situazione molto, molto delicata. La prima: forse l'aumento monstre dovuto alle preoccupazioni per un addendum, mi spiego, per le nuove regole che dal 1 gennaio potrebbero partire a livello europeo, a livello di BCE, sulle nuove sofferenze bancarie, è stato eccessivo, perché poi la NUI ha detto stiamo ragionando se fare partire tutto il 1 gennaio. C'è stato uno scontro molto forte anche col presidente Tajani, e quindi che ha detto no, questa è un'azione politica, non spetta alla BCE farla. E c'è chi dice forse si sono fatti prendere un po' la mano con questo aumento monstre. Dall'altra parte c'è chi dice si sono mossi tardi sul fronte delle alleanze. Sì, per loro il modello era Unicredit un anno fa, proprio di questi tempi, si presentava sul mercato un aumento da 13 miliardi a valle di una maxi pulizia sui crediti. Il problema è che Unicredit è Unicredit, quindi ha un altro brand, ha altre leve a cui fare ricorso. Quindi indubbiamente forse in quest'ottica si è fatto il passo più lungo della gamba, e l'altro, quindi così si spiega la sfiducia del mercato. L'altro tema delle alleanze è corretto: Credito Valtellinese è una media banca che da anni galleggia, fino a prima di questa fase anche in modo discretamente sereno, è però di quella classica dimensione che se non stai benissimo alla fine non ti porta da nessuna parte. Se vogliamo, il confronto con Popolare di Sondrio è emblematico, perché sono due banche molto simili, non solo per territorio ma anche per dimensioni, per quanto Sondrio sia un po' più grande. In realtà Sondrio ha uno stato di salute abbastanza migliore da potersi permettere di stare effettivamente per conto proprio, almeno ancora per un po'. Il Creval forse non è in questa situazione. In passato si è vociferato di possibile asse con Biper, oltre che con la stessa Sondrio o con altre banche della zona, peraltro una rete in Valtellina, in una zona nord Lombardia, non è neanche da buttare, insomma, non parliamo... No, ma poi, ecco, da questo punto di vista però, visto che ci scrivono molti ascoltatori, quanto rischiano i correnti, nel senso che qua sappiamo che col bail-in, ce ne siamo accorti a suo tempo... Allora, un conto è dire il mercato abbatte il titolo, e lo ha abbattuto, perché un aumento di capitale del genere va a diluire moltissimo il valore del titolo. Però fin qui, diciamo, c'è una reazione del mercato normale a un aumento di capitale eccezionale. Altra cosa è dire che la banca rischia. Sì, non dimentichiamo che i depositi fino ai 100.000 euro, anche nel peggiore degli scenari, sono tutelati. Via via, in caso di scenario peggiore, che è la risoluzione con il bail-in, che è appunto il peggiore di tutti, si va a erodere titoli a rischiosità quindi obbligazioni, esatto, quindi si parte da obbligazioni subordinate, poi senior e via discorrendo. Diciamo che il Creval non è a differenza di Carige, tanto è vero che ha convocato l'assemblea adesso, insomma non c'è quell'urgenza tale come il Carige. Non dimentichiamo, è da mesi sotto le soglie minime di capitale previste dalla BCE, cosa che non vale per il Creval. Non c'è un diktat della BCE, devi fare l'aumento entro domani o entro fine anno come nel caso di Carige. Per carità, se hanno predisposto una manovra così, sicuramente dalla vigilanza sono arrivate indicazioni chiare. Sì, loro sono vigilati dalla Banca d'Italia, non dalla BCE. Bravo, esatto, perché sono sotto soglia. Quindi sicuramente c'è un pressing della vigilanza non così soffocante, quindi insomma siamo a un livello ancora, diciamo, di rischio gestibile, maggiormente gestibile rispetto a Carige. Se su Carige oggi non si fosse trovato l'accordo, il rischio che saltasse tutto era molto alto. Sì. Allora staremo a vedere, terremo monitorata la situazione anche la prossima settimana. Grazie intanto a Marco Ferrando. Soy el fuego que... Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Un ringraziamento come sempre a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione e in studio. Da Sebastiano Barigioni l'augurio di un buon fine settimana, soprattutto per chi dovrà passarlo lavorando. Focus Economia torna da lunedì in poi, come sempre, alle 17. Radio 24. Libera la voglia di fare.